in primo piano. Mercoledì 1 dicembre, dunque l'università certamente con il sia la riforma ma le proteste e scontri è sulle pagine di tutti i giornali, sia la riforma tra proteste e scontri per il Corriere, sia la riforma università in rivolta per Repubblica. Ci si discosta di poco sui vari giornali, cito solo l'apertura del Sole 24 Ore, un po' diversa su un altro tema, Trichet, l'euro non rischia. Ma vedremo questi temi più avanti. Io voglio partire ancora una volta da Mario Monicelli. Sapete la notizia del suo suicidio, essendo arrivata l'altro ieri sera e dunque sulle prime pagine dei giornali. C'era ieri qualche notizia, diverse notizie, ma come al solito il giorno dopo ci sono più commenti, più interviste. La notizia è che non ci saranno i funerali, ma un saluto. Segnalo l'intervista del Corriere della Sera alla moglie Chiara Rapaccini, che racconta gli ultimi giorni e i pensieri di suo marito. Lo fa Maurizio Porro, parla dei rapporti in famiglia, ottimi, anche se certo era un padre un po' strambo. Con me aveva una figlia oggi di 22 anni, oltre a due precedenti. L'ultima sua passione, la politica. Era entusiasta di Vendola, seguiva solo la radio perché ormai era cieco, ma quando riusciva a vedere la TV era entusiasta di Vendola. Riguardo alle soluzioni, mi ha detto, ma l'ha detto anche ad anno zero, era deluso dalla sinistra ufficiale, diceva di fare la rivoluzione. Mentre un'altra intervista più intima, legata anche ai rapporti nel cinema, la fa Pupi Avati su Repubblica, un'altra bella intervista di come hanno passato una vita insieme anche nella sfortuna, quando furono contemporaneamente vittima di un incidente stradale Monicelli e un infarto Pupi Avati. Nel 1988 si ritrovarono all'ospedale, al Policlinico Gemelli. Ogni sera quando spegnevano la luce, ecco che ci sentivamo sempre più vicini, ci siamo riavvicinati intimamente. E poi Pupi Avati che dice: un Mario Monicelli che era un duro, si imponeva codici militari, faceva le scale a piedi, smettere di fumare, mangiare solo insalate, in aereo non toccava cibo perché non amava i catering, non si faceva tentare neanche dalle mitiche cene di Ugo Tognazzi. In Brasile nel 73 eravamo tutti lì con Tognazzi, mio fratello, io, tutti che scappavano per tornare all'alba di sera. In albergo restavamo solo io, mia moglie e Monicelli. Era un duro, si imponeva codici militari. Ma certo ci sono tanti ritratti di Mario Monicelli, 95 anni, suicidatosi due giorni fa, e per il quale non ci saranno i funerali ma solo un saluto. E anche in prima pagina, certo, anche questo gesto molto tipico di Mario Monicelli, questo gesto finale porta anche il giornale in un'intera prima pagina che al centro ha proprio la foto di Mario Monicelli, il diritto di dire basta e senza funerali, il suicidio di Monicelli, e l'articolo di Stenio Solinas, che certo fa anche discutere appunto per il gesto estremo che ha fatto il maestro del cinema. Ops, si sarebbe arrabbiato a sentirlo chiamare maestro. La riforma dell'università è passata con 307 voti a favore, 252 contrari, 7 astenuti. È passata alla Camera, ora ci vuole un ultimo passaggio al Senato. E tutto questo è sulle prime pagine dei giornali, con anche le proteste in tutta Italia. Le foto che troverete sui giornali sono anche foto di scontri, ieri per esempio in particolare a Roma, oppure anche autostrade bloccate. Trovate su tutti i giornali anche commenti su cosa comporta la nuova riforma, cioè le novità, ed è importante perché molti magari protestano, o molti sono contrari, o molti sono a favore, senza sapere quali siano poi i contenuti veri della riforma. Tra i commenti segnalo in prima pagina del Sole 24 Ore Alberto Orioli: il merito all'università è un aiuto ai giovani, questo è il titolo dell'editoriale. Alison Richard, compiuti 65 anni, ha riunito il corpo docente di Cambridge, la sesta università del mondo, e ha ringraziato tutti per l'ottimo lavoro svolto e i brillanti traguardi raggiunti. La sua missione di rettore è durata 5 anni, come per gran parte dei suoi predecessori. Più o meno negli stessi giorni, Augusto Preti, 67 anni, ha riunito il corpo docente dell'Università di Brescia, la settima in Italia, e ha ringraziato tutti dopo 9 mandati e 27 anni di carriera da rettore. Era il decano dei rettori, che in Italia stanno in sella di media per oltre 10 anni. Due modelli, due paesi, due stili, Due culture. In Gran Bretagna è un board a scegliere il rettore. In Italia si viene eletti dai colleghi. Rating di mercato contro rating di campagna elettorale. A volte coincidono, spesso no, perché nell'uno vale soprattutto il merito, nell'altro vale soprattutto il voto di scambio. Ecco, da questa premessa, scrive Alberto Rioli, la riforma Gelmini, che ieri ha avuto il primo via libera alla Camera, non trasformerà per legge l'Italia nella Gran Bretagna, ma tenta di arginare il fenomeno delle nomine a vita e pone un tetto di 6 anni al mandato di rettore. Lo stesso emendamento antiparentopoli ha ulteriormente limitato il rischio di nepotismo accademico. Diciamo, questo è uno degli aspetti della riforma su cui si concentra l'editoriale di Alberto Rioli, ma certo, come detto, ci sono tanti aspetti, tanti commenti anche diversi. Io ricordo che alle 8:20 avremo ospite il rettore della Sapienza di Roma, l'università più grande d'Europa, Luigi Frati, sarà nostro ospite per l'intervista a fare due chiacchiere sulla riforma, per l'appunto. Per quel che riguarda invece le proteste, vedete come la pone il Fatto Quotidiano con il suo direttore Antonio Padellaro, dentro e fuori l'editoriale di prima pagina. Dentro c'è un governo asserragliato nell'aula di Montecitorio per uno strano rito propiziatorio. Riesce a far votare una brutta legge sull'università quando ha già un piede nella fossa. Fuori ci sono gli studenti, migliaia e migliaia in ogni città e in tutte le città. Sembravano ragazzi e ragazze come se ne vedono tanti, come i nostri figli o i nostri nipoti. Dentro c'è un mondo finito, lo sanno anche Berlusconi e la sua corte, volti grifagni, avvizziti, resi maschere da un eccesso di coloranti. Fuori c'è una generazione a cui hanno detto: voi non contate niente, se siete maschi trovatevi un padrino che vi protegga e se siete femmine un po' carine trovatevi un marito ricco. Ieri quei ragazzi gridavano: ci avete tolto il futuro, ma ce lo riprenderemo. Sono saliti sui tetti nel gelo delle notti per annunciare: voi avete il potere, ma noi siamo troppi e abbiamo 20 anni. E infatti ritorneranno e saranno di più. Questo è l'editoriale, quasi suona come un auspicio, di Antonio Padellaro del Fatto. Tra l'altro, sulla riforma dell'università, ieri c'è stato un voto alla Camera sul quale voglio porre l'accento, perché lo fa La Stampa, lo fa Il Giornale con il titolo di prima pagina, ma lo fa anche l'Unità. A un certo punto, visto che uno dei punti più controversi è quello dei ricercatori, i quali dicono: con questa nuova riforma rimarremo precari a vita, perché ci saranno 8 anni di contratto a tempo determinato prima di essere assunti a tempo indeterminato, oppure basta, finire la carriera universitaria. Ebbene, allora c'è stato a un certo punto un emendamento voluto dall'API, il partito di Rutelli, e proposto da Tabacci e Calgaro, che suonava così: non ci sono soldi per i ricercatori? Dirottiamoli dai finanziamenti ai partiti, prendiamo 20 milioni dal finanziamento ai partiti e diamoli ai ricercatori. Pagare i ricercatori coi soldi del finanziamento ai partiti? Tabacci propone e il PD si spacca. Questa è una notizia data dalla Stampa, pagina 2. Quando è successa questa proposta è insorto Ugo Sposetti, onorevole, ex tesoriere dei DS, conosciuto per il suo carattere sanguigno, una proposta volgare. Sposetti ha detto assolutamente di no, e a quel punto il partito, il PD, si è un po' spaccato, perché molti hanno votato appunto no, come Bersani. No, Bersani sceglie di non votare, Fassino ha scelto di non votare, però molti invece hanno votato con il PDL e la Lega, quindi hanno votato no. Questo per esempio Sposetti stesso, la Livia Turco, Sergio D'Antoni, Albonetti, un'altra fetta del gruppo, altri come Franceschini per esempio, Gentiloni, Realacci invece hanno votato per questa proposta di Tabacci, cioè dirottiamo un po' di soldi dai partiti e li diamo ai ricercatori. Altri si sono astenuti. Sta di fatto che Il Giornale ci sguazza e mette il titolo di prima pagina: Bersani si tiene i soldi dei precari. Ecco come viene dipinta. E Bersani fa il paladino sui tetti e poi si tiene i soldi dei precari. A pagina 3, dopo le passerelle insieme agli studenti, il segretario PD non vota il provvedimento che avrebbe dato 20 milioni ai ricercatori togliendoli ai partiti. E così anche l'Unità: soldi ai ricercatori anziché ai partiti, il no della Camera. A pagina 13 è l'articolo di Andrea Carugati, e anche qui Ugo Sposetti viene detto come il più agguerrito contro questa proposta, definendola una proposta volgare. Sta di fatto che l'università è sullo sfondo della politica. La politica è l'avvicinamento al 14 dicembre. Siamo finalmente entrati almeno nel mese di dicembre, 2 settimane al D-Day di fiducia o sfiducia. Si fa la conta di chi voterà di qua, di chi voterà di là. Per Repubblica ormai è definito, Fini e Casini voteranno insieme, proporranno e lo faranno il 9 dicembre, questa è data la data, secondo Carmelo Lopapa nel retroscena politico, voteranno, o meglio proporranno, l'atto di sfiducia a Berlusconi. Fini e Casini uniti, sfiduciamo il Cavaliere, Carmelo Lopapa in prima pagina di Repubblica e poi all'interno a pagina 7, con molta probabilità giovedì 9 verrà presentato questo atto di sfiducia, al quale verrà chiesta la firma anche di dell'API, del Movimento per le Autonomie, oltre che appunto di Fini e dei Finiani e dell'UDC, in totale 83 parlamentari. Per quel che riguarda il pallottoliere dei voti, secondo diciamo i rumors, Repubblica dice che per il PDL ci sarebbero 312 voti per il PDL, per la maggioranza. Sapete che l'asse è fissato a 316, o qua o sopra o sotto, per fiducia o sfiducia, a meno che non ci siano assenze, ovviamente. Berlusconi invece si dice molto ottimista. Ieri, tra l'altro, è stato pubblicato dal Secolo d'Italia, il giornale vicino ai Finiani, una cifra attribuita alla sondaggista fidatissima del Premier, vale a dire Alessandra Ghisleri, che dà il PDL in forte calo, sotto quota 25%, tanto che oggi Alessandra Ghisleri viene intervistata da Libero e dice: mi viene da ridere, se si vota non c'è partita, vincono ancora PDL e Lega. Ieri Alessandra Ghisleri dice: ho letto il Secolo d'Italia, il PDL sotto il 23%, quando ho letto la notizia mi è venuto da ridere, l'ho preso come uno scherzo. Il PDL attualmente è ancora attorno al 29%, non ci sono grandi variazioni a livello di sondaggi, da un mese a questa parte per i partiti più grandi le oscillazioni sono contenute nell'arco di un punto percentuale. La Ghisleri dice: i presunti scandali sessuali non hanno indebolito il Cavaliere, non c'entrano con la politica, mentre Future Libertà di Fini è data al 5,4%. Questi sono i sondaggi di Alessandra Ghisleri, che viene data la fidatissima di Berlusconi, perché è una che in genere ci azzecca abbastanza quando si tratta di fare queste previsioni. Ci sono poi politici che, sapete, sono da un po' di giorni sulla graticola. Uno di questi sicuramente è il ministro Bondi, con le campagne dei quotidiani che dicono: ma come, le consulenze al figlio della compagna, all'ex marito della compagna, la vicenda dell'attrice bulgara alla quale forse è stato dato un premio farlocco e per la quale è stato fatto un film pagato anche 1 milione di euro dalla Rai. Beh, tanto che ieri ci si è messo anche un altro crollo a Pompei, è caduto a una parte del muro della casa del moralista, tanto che Libero è veramente impietoso, a pagina 14, 2 crolli in 300 anni, Bondi è il ministro della Iella. Mattias Mainiero dice: consiglio al ministro Bondi, senatore, si compri un cornetto porta fortuna. Gli esperti dicono che deve essere di corallo con la punta spezzata. Un bel cornetto, altrimenti qui ci rimettiamo l'intera Pompei. Eccellentissimo ministro, ma lei si rende conto? Un altro crollo. Prima la casa dei gladiatori, poi a una ventina di metri il muro della casa del moralista, venuto giù, complice la grande pioggia, come fosse un muro molto antico. Ci sforziamo e chiudiamo un occhio al primo crollo, il secondo però insospettisce, e non solo per quanto riguarda lo stato delle antiche rovine. Insomma, un altro crollo a Pompei, con Sandro Bondi che però passa al contrattacco, scrive una lettera a Repubblica molto sintetica nella quale dice: mi stupisco ancora sulla questione del film che il ministero della Bonev, che il ministero non ha assolutamente finanziato. E poi fa un'intervista al Corriere della Sera. Bondi: nessun premio patacca, quello alla Bonev era nel catalogo. Intervistato dal Corriere della Sera da Paolo Conti, Bondi dice: nulla di strano su quel premio, che era nel catalogo della mostra di Venezia. Michel Bonev, chi ha pagato l'ospitalità per le 32 persone dello staff? Michel Bonev ha dichiarato che è stata la società italiana Romantica Entertainment. Per me il caso è chiuso. E poi le consulenze al figlio della ex compagna e al figlio della compagna e all'ex marito della compagna. Tutto un po' complicato. La verità è distorta, sono particolarmente amareggiato, dice Bondi, per la sofferenza causata alla mia compagna. Per suo figlio si tratta di un lavoro interinale a tempo determinato presso una fondazione che ha una sua autonomia dal ministero. Per quel che riguarda l'ex marito, ho ritenuto di autorizzare una consulenza modestissima a una persona che ne aveva necessità, come avrei potuto darla e l'ho riconosciuta a qualsiasi altra persona coi requisiti per averla. Nessuno ha commesso alcun illecito. Insomma, dice, solo fango sul figlio e l'ex marito della mia compagna. Continuano sui giornali le rivelazioni di WikiLeaks, anche se alla mia domanda, il mio rovello da giorni, cioè dove è finito questo Julian Assange, beh, davvero non si sa, ma d'altronde non lo sa neanche l'Interpol, che ha spiccato un mandato d'arresto, l'abbiamo detto anche ieri, ricercato per due stupri. Accuse pesantissime in Svezia e dunque mandato d'arresto per Julian Assange, che ha lanciato una nuova minaccia. In realtà bisogna chiarire, questa minaccia, il prossimo obiettivo sono le grandi banche americane, non è una minaccia di ieri, ma è una minaccia che Julian Assange ha fatto qualche tempo fa in un'intervista, cioè prima della rivelazione di tutti questi file. Ha fatto un'intervista a Forbes, che però esce solo ora, quindi l'intervista di qualche giorno fa, nella quale appunto Assange ha detto: ed ora faremo crollare una o due banche con le prossime rivelazioni. Quale banca, di quale banca stia parlando? Questo è l'enigma. Beh, il Sole 24 Ore è abbastanza certo con Claudio Gatti, ombre su Bank of America. È questa con tutta probabilità la banca, il colosso bancario a cui fa riferimento Julian Assange. E questo da cosa lo si deduce? Dal fatto che già di recente, qualche tempo fa, Assange aveva detto che era in possesso WikiLeaks di 5 gigabyte di documenti di Bank of America provenienti dall'hard drive di uno dei suoi dirigenti. Quindi presumibilmente in questa intervista di Forbes, nella quale non ha citato esplicitamente Bank of America, però si presume, facendo uno più uno, visto che di recente aveva detto di avere dei file su Bank of America, che sia proprio quella. Sta di fatto che da WikiLeaks, ombre su Bank of America, questo per il Sole 24 Ore, Claudio Gatti, lo trovate a pagina 10. Rimanendo proprio sul Sole 24 Ore, come detto, l'apertura è dedicata all'euro. Trichet, l'euro non rischia. Tra l'altro Beda Romano a pagina 4 fa sapere che è un Trichet, il presidente della Banca Centrale Europea, che ha richiamato a più disciplina verbale gli stati membri, e sembra proprio davvero riferirsi, secondo Beda Romano, alla Germania. Sapete che anche la Merkel, e comunque la Germania, è il primo paese che non ha fatto mistero dopo la crisi della Grecia e ora dell'Irlanda, è il fatto che l'euro ora sia in pericolo, non sia così davvero un tabù l'idea di uscire dall'euro, tanto che anche sulla stampa Letta preoccupato a fondo sull'euro, questo Gianni Letta, che tra l'altro continua a ripetere questa battuta: rappresento pro tempore il governo, non so quanto lungo o breve, non si sa mai. Non è la prima volta, sarà almeno la terza o quarta volta che in incontri pubblici Gianni Letta, uno sempre così diplomatico, sempre pronto a non sbilanciarsi mai, fa questa battutina: rappresento pro tempore il governo, ma non so fino a quando. Sta di fatto, io voglio ricordare che il tema finanziario è anche un po' il tema, comunque c'entra l'economia, il tema del nostro sondaggio, vale a dire, parliamo del 5 per 1000. È da un po' di giorni che le tante associazioni che lavorano nel terzo settore hanno lanciato questo allarme, perché quest'anno, per il momento, la legge di stabilità, il tetto massimo per il 5 per 1000 è stato fissato in 100 milioni, non più i 400 milioni degli altri anni. Quindi una decurtazione rispetto agli altri anni del 75%. Ora, anche sui giornali oggi, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, il 5 per 1000, con i tagli la ricerca è a rischio, sia sul Corriere sia su Repubblica, 5 progetti contro il cancro, ma senza fondi si rischia lo stop. Se si taglia il 5 per 1000 la ricerca muore. Il ministro Tremonti, per la verità, ha assicurato che questi 300 milioni per raggiungere il tetto come gli altri anni si troveranno. Si tratta di vedere dove, come, quando. Certo, per ora c'è la preoccupazione di tutte le associazioni che dicono non bisogna tagliare questo settore, bisognerebbe tagliare altri settori. Questo, ripeto, è il tema del nostro sondaggio. Vi chiediamo se sia giusto questo taglio in tempi di rigore finanziario, oppure se invece bisogna tagliare prima altrove. Votate su radio24.it, ne parleremo più avanti. Sono le segnalazioni conclusive. La prima è che primo dicembre del 1970, che successe, cari italiani? Vediamo un po', una pausa, ve lo ricordate? Primo dicembre 1970, dunque 40 anni fa esatti. Peter Bescapè mi guarda dubbioso. La legge sul divorzio. Sono passati 40 anni dalla legge Fortuna Baslini. Oggi due pagine, Marcello Veneziani, tra futuro e tradizione su Il Giornale, Il divorzio all'italiana non fu solo progresso, e invece La Stampa con Fabio Sindici, Il divorzio all'italiana è poco europeo, c'è l'anticipazione del libro dell'avvocato matrimonialista, presidente degli avvocati matrimonialisti, Gian Ettore Gassani, che si dedica proprio tutti ai tempi medi dei divorzi in Italia. Si intitola 27 minuti questo libro perché è il titolo, 27 minuti, questo secondo la statistica, è la durata media della famosa prima udienza, 27 minuti. E poi, insomma, in realtà quanto sono lunghe le cause di divorzio, dai 5 ai 10 anni, secondo se la separazione è consensuale o giudiziale, la spesa dai 1.000 ai 50.000 euro, 40 anni fa la legge sul divorzio. E infine scioperano i calciatori, l'avete sentito, 11 e 12 dicembre, titolo della Gazzetta. Ma che sciopero è? Già, me lo chiedo anch'io e ve lo chiedo anche a voi, il GR.